bene, bene, a voi. Sto provando il DAC, però c'è un falso contatto e no, non mi convince molto. Aspetta un attimo. E via, fai pure, non c'è problema. Invece da me funziona, è strano. Lo sento anche io l'altro giorno che avevo problemi, ma l'antenna funziona, e che non abbia qualcosa lui nell'antenna allora. Senza possibile, ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, signor, se io schiaccio con la... l'incensione, ecco, portatele qua, aspetta, l'accendo, se c'è un tubo accendo. sentiti, la tensione delle valvole ti dà tutto. Cosa di zeppi, no? Lo sto svoltando, non dirti. se no poi è troppo forte. Quest'anno non ho potuto staccare a giugno o luglio, se no di solito faccio una settimana a giugno, una a luglio e una settimana a settembre, capito? Di Suvadro, lì. Murphy subito a sinistra, lo stesso ce n'è un altro, però poi vabbè, quello più frequentato è Montentoso, capito? Sì, anche l'altro mangiato, ma si mangia bene tutti e due, dai, ma si mangia bene, che c'è poco da fare. E già Rodrigo, ma io te l'ho fatto vedere anche a Linea Verde l'altro giorno. Montentoso, io riconosco il proprietario Antonello Callisto, infatti gli manca la sorella, l'altro fratello piccolo, conosco perché ci ho lavorato per anni lì a Nulvi, e poi il mio responsabile, il responsabile non del distretto, il referente del distretto è di Nulvi, capito? Ho capito. Ci aggiorniamo, dai, già sono qua, ok?